Deborah. Ascoltami, ti prego, ascoltami. Da quando hai detto che non vuoi più bene a me, da quando hai detto che lunghe ali di fuoco hanno coperto la luna sopra di me, e sui prati di sabbia corro piangendo cercando. Se ho sbagliato, perdonami. Io non riesco, sai, a stare senza te.